Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Smile, though your heart is aching. Sorridi, anche se il tuo cuore soffre. Sorridi, anche se si sta spezzando. When there are clouds. Quando ci sono nuvole nel cielo, non ci penserai se sorridi. Attraverso la tua paura e il tuo dolore, sorridi. E forse domani vedrai il sole levarsi e splendere per te. Smile and maybe tomorrow. Buongiorno da Nicoletta, cheese, oggi sorridete, anzi sorridiamo, e se non siete dell'umore giusto sforzatevi un pochino, male sicuramente non vi farà, anzi direi non può farvi che bene. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Maria Bressa, buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Professore, sorridi che ti passa, ci sono dei testi dedicati proprio al pensiero positivo che raccomandano perfino di sorridere per qualche minuto davanti allo specchio come esercizio del mattino. Mi sembra un po' troppo, ma è certo che un sorriso, anche quello un pochino stiracchiato, influenza il nostro stato d'animo. Quando siamo un po' giù, un sorriso ci tira su, o almeno aiuta a vedere meno nero. Sì, non solo, ma addirittura il ricordo di un sorriso è in grado di cambiare l'umore. Un esercizio ho usato talvolta nelle tecniche di psicoterapia, nelle persone con una tendenza alla depressione, che non riescono a vedere intorno nulla che faccia loro gioire, e viene loro insegnato, spiegato e utilizzato come fermarsi, concentrarsi sull'ultimo sorriso che hanno ricevuto, sull'ultimo sorriso che hanno dato, può essere un modo per influenzare lo stato d'animo. Per cui, perché non suggeriamo anche ai nostri ascoltatori di raccontarci eventualmente che effetto ha fatto loro l'ultimo sorriso che hanno dato o ricevuto? E c'è un'altra buona ragione per sorridere. Di solito quando lo facciamo sembriamo più belli, perché è una questione di armonia, di proporzione, di equilibrio. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Zuffi, storico dell'arte. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Autore di numerosi libri, tra cui voglio citare il più recente perché ho avuto il piacere di leggerlo e lo consiglio, Le parole dell'arte, per capire e amare i pittori e le loro opere, Feltrinelli Editore, un libro davvero molto bello, professore, complimenti. Grazie. Ma a parte, vede che sorride, ma a parte questo, è una questione di equilibrio, di armonia, di proporzioni? Ah, senz'altro. Abbiamo delle testimonianze meravigliose in questo senso, sculture di migliaia di anni fa, come le grandi statue del faraone Ramses II del tempio di Abu Simbel, come le sculture della Grecia arcaica, o dalle nostre parti come le bellissime sculture etrusche. Ecco, tutte queste sculture che appartengono all'archeologia, che risalgono indietro nei millenni, sorridono, e sorridono perché il volto umano, punto di partenza per lo studio, per l'analisi delle proporzioni, grazie al sorriso assume una dimensione, una proporzione armoniosa, e naturalmente anche un contatto più confidente con le persone che guardano. Ma professor Zuffi, come mai nel Rinascimento e nell'età barocca i sorrisi sono così rari, tanto che i pochi diventano celebri? E questo è un problema di igiene dentale. Solo da pochi decenni in fondo la cura dei denti e del sorriso fa sì che generalmente le nostre bocche siano presentabili. Ahimè, anche le più belle dame e i più nobili cavalieri del Rinascimento e dell'età barocca soffrivano di problemi dentali veramente piuttosto sgradevoli. E quindi non potevano sorridere. Meglio di no. Professor Zuffi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buongiorno a voi. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. E allora sorridere bisogna avere denti e gengive sane, belle. E qua in studio con me ho la dottoressa Alessandra Rigoni, medico, chirurgo, specialista in odontoiatria e ortodonzia a Milano. Buongiorno dottoressa, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno a lei Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. È vero, sì, ci sono delle persone che non sorridono o sorridono a metà proprio per evitare di mostrare una bocca che non è bella. Certo, per fortuna sempre meno, perché oggi come oggi ormai il nostro target estetico è quello del sorriso bianco, delle labbra armoniose, anche possibilmente carnose. E quindi mi rifaccio a quello che diceva il professor Zuffi. Certo. Quando guardiamo i film, quando guardiamo le fotografie nelle pubblicità, tutti hanno denti bianchi, hanno un sorriso che sfodera i denti. E la funzione del dentista oggi è proprio quella di permettere di avere un'armonia dentale in un contesto di salute. Quindi Kaloska e Agatsos, come dicevano i greci, la bellezza è anche collegata a un concetto assoluto di salute per noi dentisti oggi. Le tecniche operative attuali ci permettono di fare cose estremamente avanzate, quindi ottimali per i nostri pazienti. Quindi chi non ha una bella bocca può in qualche modo migliorare, correre ai ripari. Certamente migliorare. E migliorare fin dalla prima infanzia. Vorrei fare un piccolo appunto su quello che per noi dentisti è l'armonia del sorriso. Il sorriso è contestualizzato nel volto, per cui il volto noi lo dividiamo teoricamente in tre parti: la fronte, che è la parte intellettiva, la parte del naso, la parte del respiro, quindi la parte spirituale, poi la parte più carnale del cibo, dell'assunzione proprio della parte vitale, che è il cibo stesso, la relazione esterna tramite le labbra, la lingua, i sapori, che è la parte pertinente al dentista, e noi di questo ci occupiamo. E per farci capire quanto è importante in fondo la nostra opera, basta vedere i famosi disegni di Leonardo quando dipingeva gli anziani che avevano questi menti terribili. Tutta una bocca che rientrava. Sì, che toccavano il naso. Perché? Perché erano i vecchi che perdevano i denti. Perdendo i denti anche le basi ossee si riducevano, perché bisogna ricordare che l'osso della mandibola e della maxilla esistono grazie al fatto che devono nutrire i denti, e quindi queste forme di vecchi molto devastati oggi per fortuna nei nostri, non ci sono più. No, nei paesi occidentali almeno non vediamo più queste cose che sono decisamente drammatiche. Professor Bressa, quindi assolutamente i dentisti ci aiutano a prevenire dei disturbi, a mantenere il sorriso, a recuperare un buon sorriso. Noi lo leghiamo sempre al sorriso a delle emozioni positive, ma non sempre succede così. No, il sorriso è comunque, dal punto di vista dell'evoluzione, è stato un punto di incontro in cui qualche nostro antenato, chissà quando, muovendo i muscoli facciali, si è cristallizzato in una qualche espressione che evidentemente ha sortito un beneficio. Quella persona può essere stata, si è fermata un'aggressione verso di lei, c'è stato un improvviso cambiamento di idee nei suoi corpi, insomma ha sortito un effetto positivo, quindi è diventata funzionale nell'evoluzione. Dall'altra parte è ovvio che anche noi sappiamo poi come maneggiarla. Esistono situazioni critiche nelle quali cerchiamo di allentare il peso della tensione in una discussione, certo, sorridendo, oppure addirittura no, la scelta di sorriso a 32 denti, quella espressione stiracchiate in cui appunto portiamo la rima della bocca alla sua estensione massima. Questi sono chiamati appunto fake smiles, cioè sorrisi fasulli, e fanno parte delle strategie della comunicazione individuale, ma sembra che la nostra capacità di riconoscere un sorriso falso da un sorriso vero, ancor prima che essere psicologica, sia proprio legata a centri del cervello che riconoscono quando ricorre l'uno o l'altro delle situazioni. E quindi voi da casa sapete riconoscere un sorriso sincero da uno invece che vuole trasmettere altri messaggi, un sorriso falso? Dottoressa Rigoni, oltre alla bellezza del sorriso, il sorriso ha anche un colore, no? Noi lo pensiamo, è il bianco. Certamente. E adesso ci sono numerosi trattamenti sbiancanti, dottoressa Rigoni sarà lieta di rispondere e aggiornarvi anche sulle novità, ma intanto dottoressa Rigoni, prevenire è meglio che curare sempre. Certamente. E oltre alle consuete cure specifiche quotidiane, bisogna tenere presente che la salute dei denti è molto legata anche al nostro stile alimentare. Certo. Gli zuccheri non piacciono al nostro smalto, certo. Ma non gradisce neanche l'acido. Parlavamo appunto di sorrisi un po' acidi e stiracchiati. Sì, l'acido è l'unico vero nemico dello smalto. Lo smalto, che è la parte di rivestimento esterna del dente, è quello che dà lucentezza al dente. Lo smalto è il materiale più duro che abbiamo nel corpo umano, è idrossiapatite oltre al 90%, per cui resiste a tutto ma non all'acido. Il pH della saliva è un pH neutro di solito. Quando assumiamo cibi, dopo circa 10 minuti questo pH diventa basso, diventa acido. Quindi è vero che bisogna limitare le bevande gasate, magari le spremute d'arancia, tutto quello che ci produce acidità, ma ovviamente un'alimentazione sana, equilibrata, deve comprendere tutto, anche queste, certo, cose. Poi le arance sono fondamentali. Quindi io consiglio sempre di aspettare quei 5-10 minuti e poi comunque di andarsi a lavare i denti. Cioè non possiamo. Quindi, primo consiglio: non lavatevi i denti subito dopo mangiato, ma aspetta, prendetevela comoda, sì, aspetta, però ricordatevi. Il caffettino e poi ci si va a lavare i denti. Ecco, questo è fondamentale. Bisogna lavarli bene, in maniera approfondita, i famosi spazzolini, se si può lo spazzolino elettrico, l'idropulsore, lo scovolino, fil interdentale, tutto quello che serve, che di solito il dentista, che è un cattivone in questo senso, impone al proprio paziente. Questa è la base per partire verso una salute e una bellezza della bocca. L'altro aspetto molto importante che io sottolineo sempre è di portare i bambini in età precoce dal dentista, perché è vero che il dentista si occupa dei denti, ma si occupa anche delle basi ossee. Cioè il sorriso è brutto quando c'è una discrepanza, cioè una disarmonia tra la mandibola e la maxilla, cioè l'arcata superiore. Quindi i bambini vanno portati precocemente per poter aggiustare, per poter rimettere in armonia quelle che sono le basi portanti dei denti. Una volta che ci si affida al proprio specialista di fiducia, si può ottenere quindi un, certo, sorriso. Siamo sano, pronti per corretto. Sorridere. Certo. E il sorriso, tra l'altro, è allenante. In linea con noi abbiamo il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, sorridere ci rende belli, l'abbiamo detto, il professor Zuffi ci ha spiegato che era proprio questo, questione di equilibrio, di armonia, ma direi che ci rende anche tonici, sorregge. Il sorriso funziona per ginnastica facciale. Sì, certo, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che la pelle poggia su un cuscinetto di grasso ed è sorretto tutto da dei muscoli. Se noi questi muscoli li adoperiamo poco o non li adoperiamo, per forza di gravità tendono, pesando, a scendere verso il basso, e questa è una delle ragioni per cui le guance lateralmente con gli anni tendono un po' a cedere, dando quell'aspetto un po' a bulldog, no? Per alcuni visi. Sorridere fa parte di tutto quell'insieme di esercizi che si inquadrano come ginnastica facciale, che negli Stati Uniti stanno avendo un successo importantissimo, enorme, e anche un po' in Italia negli ultimi tempi se ne comincia per fortuna a parlare. Sorridere o associare anche ad altri esercizi che riescono a mettere in tensione, tonificare i muscoli del volto, sono fondamentali per avere un viso giovane e naturale. Professor Di Pietro, quindi funziona, però un bel sorriso che è capace di dare luce, fascino, anche un volto un po' spento, segnato dagli anni, è fondamentale soprattutto anche per le labbra, perché le labbra sono veramente la cornice del nostro sorriso, e spesso si vedono delle labbra che sono un po' troppo statiche, perché la bellezza della una bocca bella è bella quando sorride, ma anche quando è chiusa. Sì, quando è seria. Certo. Quando si sorride le labbra si stirano, e lo stiramento, l'allungamento di questi tessuti delle labbra fa sì che migliori anche la circolazione, il microcircolo, quindi arriva più sangue ossigenato e le cellule possono produrre più collagene, più elastina, e le labbra rimangono turgide. Se si sorride poco, oppure ci sono certi atteggiamenti come il fumare ad esempio, per cui le labbra sono chiuse, addirittura, no? Si accorgono scorcia, no? Questo facilita la comparsa di quelle rughe verticali che noi chiamiamo codici a barre sul labbro superiore, che invece vengono sicuramente tenute lontano da dei bei sorrisi. E poi il sorriso rilascia endorfine, le endorfine per la pelle sono eccezionali per dare quella luminosità, quella freschezza, quella piacevolezza, no? della pelle quando si è di buon umore, si è ottimisti nella vita. Grazie professor Di Pietro per essere stato con noi, tanti sorrisi. Certo, tanti sorrisi a tutti. Intanto apriremo degli ascoltatori. Maurizio ad esempio da Bologna mi scrive: il sorriso lo fanno soprattutto gli odontotecnici, parlatene. Parleremo naturalmente anche di queste figure così importanti, certo, che lavorano a fianco del dentista. Oggi come oggi si può lavorare solo in team, anche l'odontoiatria è arrivata a dei punti di specializzazione altissimi, per cui un bravo odontotecnico risolve un po' la vita al dentista, perché come dicevamo prima, l'estetica è sempre più impellente per il paziente, quindi ci sono molti... Non vogliamo dimenticarci di loro. No, anzi, assolutamente. Ma li inviteremo poi in trasmissione, certo. Non riusciamo ad invitare tutti nello stesso momento in trasmissione, vogliamo però ricordare il lavoro di queste persone, di questi tecnici che lavorano a fianco, certo, a fianco, e sono sempre e ci regalano veramente dei sorrisi perfetti. Maurizio, buongiorno da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Senta, una cortesia. Allora, io sono completamente d'accordo con quello che avete detto sul sorriso. Il mio unico problema è questo: so che ci sono dei trattamenti sbiancanti da tempo ormai, sì, ma che sono dannosi per quello che appunto si chiama lo smalto dei denti, che è la parte bianca. Sì. Se ci sono dei nuovi trattamenti che non rovinano questa parte. Ecco, buongiorno Maurizio, le parlo da un punto di vista tecnico. Allora, dannosi, bisogna capire che cosa le hanno consigliato, cioè se le hanno consigliato delle paste dentifrici estremamente abrasive, questo sì, perché lo smalto non va graffiato, non va lesionato. Se lei invece si riferisce a quegli sbiancamenti che vengono fatti con perossido di idrogeno o con perossido di carbamia, che è acqua ossigenata praticamente, quelli che vengono fatti soprattutto dal dentista, allora il discorso è diverso. È provato che la loro tossicità praticamente è nulla, semplicemente sono delle sostanze che vengono applicate sullo smalto e fanno penetrare l'acqua ossigenata in quelli che sono gli zaffi dello smalto, come dei capelli per intenderci, dove si annidano le molecole di colore che negli anni si vanno a depositare. Qui addirittura arrivano quasi alla dentina e scindono, frammentano queste macromolecole, le rendono micromolecole e le volatilizzano. Per cui questi trattamenti, se fatti con oculatezza dal dentista, che deve essere il soggetto che valuta la situazione, non danno ogni quanto collaterali. Ci si può fare sottoporre ad un trattamento sbiancante? Non più di 2-3 anni. E poi una cosa molto ogni 2-3 sì, anni, certo, non di più. E un altro consiglio: se il nostro signor Maurizio è un giovane baldanzoso e già i denti chiari, non si turbi per questo, perché comunque ciascuno di noi ha anche una colorazione sua naturale. Anche perché io ho letto, ma lo chiedo anche al professor Bressa, non tanto come psicobiologo del comportamento umano, ma proprio se ne ha avuto esperienza anche lui, ci sono delle persone che sfoggiano dei denti talmente bianchi che ti spostano l'attenzione sulla bocca e non sugli occhi. Insomma, ci deve essere anche un equilibrio certo, tra occhi, tra il colore degli occhi e il colore della bocca. Professor Bressa, lei è d'accordo? Sì, certo, completamente d'accordo. Ho visto anche persone con un brillantino alla base del dente inserito come se fosse una, sì, una clip. Vabbè. Sì, appunto, direi lasciamo perdere. Vabbè. Essere e benessere. Sorridete amici, siamo insieme, siamo in linea con il professor Giorgio Bressa e siamo in studio con me la dottoressa Rigoni. Affrontiamo il sorriso, ma tra poco parleremo anche di baci da due prospettive diverse: la salute della bocca e anche tutto quello che la bocca comunica. In linea con noi abbiamo Roberto da Matera e poi subito dopo Emanuele da Ferrara. Roberto, buongiorno a lei. Buongiorno a lei e grazie per la sua trasmissione. Una sua trasmissione di un po' di tempo fa sul concorsale mi ha veramente cambiato la vita. Wow, Roberto! Veramente, mi ha veramente cambiato la vita e ho avuto dei grandissimi benefici dai suoi consigli. Bene. Quindi, grazie veramente. Sono contenta. Roberto. Grazie. Vorrei fare prima una piccola considerazione. Io sono una persona che sorride molto, sinceramente. Sì. Ho notato che il sorriso, quindi una persona che sorride, è sempre una persona gentile e quindi una persona educata. Questa è una cosa che ho riscontrato in parecchi episodi. Sì. E questa è una considerazione mia. Poi vorrei fare una domanda. Vorrei sapere se l'uso del chewing gum, del masticare la gingomma, può danneggiare lo smalto dei denti, eventualmente anche considerando che ci sono gomme senza zucchero e gomme con lo zucchero. Questa era la mia domanda. Allora, una doppia domanda. Roberto, rispondiamo per il chewing gum. Ecco, il chewing gum non fa assolutamente male, anzi è addirittura consigliato. Ovviamente non deve avere degli zuccheri nel glucosio, ma l'ossilitolo. Innanzitutto la gomma è salvifica quando non abbiamo lo spazzolino sotto mano, per cui dopo 10 minuti ci si infila in bocca una gomma a base di xilitolo e si riescono a rimuovere tutti i grossi detriti di cibo che restano naturalmente in bocca. Ma anche durante la giornata masticare aiuta ad aumentare la salivazione e quindi a pulire la bocca, e l'ossilitolo, che è uno zucchero estratto dalle betulle, addirittura un'azione protettiva, ci fa diminuire la quantità di batteri contenuti nella nostra saliva e nella bocca, e quindi poi possiamo baciarci anche con delle bocche profumate. Certo. Professor Bressa, mi rovina la piazza. Perché? Io combatto con i miei studenti, combatto con le persone che mi masticano in faccia, sull'autobus, in giro, e masticano o rispondono al telefono. Dica che si può fare, che fa bene, ma quando si è da soli e non quando si è col padre. Assolutamente sì, professore, però non bisogna fare dell'ostracismo su una cosa che poi è anche utile da un punto di vista della salute. Però da ragione soli. È terribile masticare con la bocca aperta, è una cosa. E anche sorridere con la gomma nell'angolo della bocca. Però in caso di emergenza può sempre servire, ecco. Non disturba gli altri se fatto con discrezione. Abbiamo Emanuele da Ferrara. Emanuele, buongiorno. A lei. Volevo fare una domanda alla professoressa. Io ho fatto una cura di antibiotico da piccolo, appena nato, diciamo. E questa, io ho 41 anni e ha macchiato i denti. Quindi antibiotici e macchie dei denti. Andiamo anche a Marisa alla provincia di Roma, raccogliamo le vostre telefonate. Marisa? Buongiorno, senta, io volevo fare presente un problema. Io sono grande, ho 60 anni e ho sempre avuto dei bei denti, però in questi ultimi anni praticamente nella parte inferiore dei denti, circa a metà, mi si è scurita. Sì. E il dentista mi ha detto che è la dentina che è vecchia, quindi non si può fare nulla. Allora, abbiamo prima di Marisa il antibiotico sullo smalto. Sono tetracicline che macchiano la dentina. In questo caso il suo dentista può intervenire con il bleaching, con lo schiarimento, col perossido di idrogeno oppure col perossido di carbamide. Vi dovete mettere lì entrambi, valutare di quanto si può, nella scala di colore, di quante tonalità si possono schiarire i denti, e qualcosa si può fare. Non sempre i risultati sono ottimali. Se questa cosa le crea un complesso enorme e a quelle persone crea dei problemi proprio di approccio sociale, ci sono poi altre metodiche, come sono le faccette, per esempio, a proposito di odontotecnici, che possono supplire a questo inconveniente, per cui trovi col suo dentista una soluzione. Le faccette sono praticamente delle unghiette, delle unghiette così, che si mettono sui denti, sì, che possono dare un'altra tonalità di colore. Oggi poi abbiamo possono anche cambiare la dimensione del dente. Certamente, vero? Certamente, chiudere i diastemi, cioè quelle aperture che ci sono soprattutto tra gli incisivi centrali. Ma anche lì si mette con il suo dentista e costruite insieme quello che è un progetto, perché il vero dentista deve soddisfare il paziente nell'ottica di una preservazione della salute della bocca. Irene spazzola periodicamente i denti col bicarbonato. Cosa diciamo a Irene? No, non è meglio evitare. Il bicarbonato domestico ha delle è grossolano, non è micronizzato, mentre quello dell'ablatore, cioè dell'apparecchietto che spruzza bicarbonato dal dentista, è micronizzato, non dà problemi. Volevo rispondere poi anche alla signora che ha 61 anni e che io considero una bambina, perché non si invecchia mai. Quindi dica al suo dentista, scusi, che la dentina non invecchia, semplicemente assume il colore della vita. Quindi anche lì si può intervenire. Schiariamo con i nostri bleaching e torneranno a essere giovani come prima, anzi dopo 50 anni questi trattamenti hanno risultati molto maggiori. Quindi conviene avere, signora, 50 anni. Signora, comincia a sorridere tranquillamente. Professor Bressa, che dice? No, c'era un'osservazione prima che era molto molto carina, cioè le persone che sorridono sono normalmente gentili ed educate, e questo è profondamente vero ed è dimostrato da una serie di studi in cui le espressioni leali, siano esse quelle verbali o comportamentali, abituano in un certo senso, organizzano alcuni punti del nostro cervello a cercare la ricompensa che viene al momento in cui vengono esibiti. In altri termini, se si parte dal sorriso possiamo diventare capaci anche di diventare più gentili e più educati. Se siamo normalmente gentili ed educati, esibire il sorriso aumenterà, potenzierà la possibilità, in un momento storico in cui di gentilezza e di educazione insomma c'è un calo vertiginoso, potrebbe essere una piccola ricetta per campare tutti meglio. Professor Bressa, io ho detto prima di Mercati che dal sorriso al bacio il passo è breve, almeno sì, per il nostro cervello, non che tutte le persone a cui sorridiamo poi finiamo con baciarle, perché lì sarebbe un po' impegnativo, sì, però ecco, ci sono dei meccanismi che sono molto simili. Sono dei meccanismi che sono molto simili, nel senso che naturalmente è l'uso della stessa fascia di muscoli che gli orbicolari delle labbra, insomma, che poi definiscono e delimitano le caratteristiche del sorriso. Dall'altra parte l'uso poi del bacio è sicuramente, sempre dal punto di vista evoluzionistico, uno strumento che ha avuto delle funzioni fortemente legate a valori affettivi, tant'è che il passaggio del cibo, come talora mancare ancora in alcuni animali, negli uccelli ad esempio, è il passaggio che avviene con una sorta di bacio, quindi è possibile che di lì sia nato il bacio. E probabilmente ci stupiamo nel sapere che al mondo c'è un 10% di popolazione che appartiene a gruppi etnici diversi che non utilizza mai il bacio, probabilmente per le stesse ragioni per le quali viceversa il bacio è nato, che potrebbe essere anche uno scambio di difese immunitarie, nel senso che attraverso il bacio noi scambiamo brutto da dirsi prima dell'ora di pranzo, ma tant'è, la saliva che contiene naturalmente delle caratteristiche immunitarie, degli anticorpi. Ma guardi che lei, professor Bressa, tra la saliva e il chewing gum, lei è proprio c'è un problema. Ma sono molti anni che sono indisciplinato. Lo so, ma mi piace per questo. Essere e benessere. Baci, baci, baci, baci, bocche da baciare, dottoressa Rigoni, non tutte le bocche si baciano lo stesso piacere, perché magari il piacere c'è, sì, e poi qualcosa ci allontana. Ci allontana la litosi, purtroppo la litosi è un disturbo, è un handicap, chiamiamolo così, che per fortuna non colpisce una gran parte della popolazione, 10% circa, in maniera veramente grave. Per il resto è una litosi transitoria dovuta al fatto... Ecco, però lanciamo un appello, se avete un partner, sì. Tanto professor Bressa, intanto che gli abbiamo dette di tutte, io abbiamo parlato del chewing gum che piace però non fa bene, abbiamo parlato di saliva, adesso parliamo di alito, un alito quando non è più fresco, ecco, ditelo al vostro partner, sì, perché ci sono, come le definisce la Laura Vanossi, delle fiatelle che uno dice, ma questo non c'ha una moglie, un'amica, una mamma, un papà che gli dice, cuore mio, fai degli sciacqui, vai dal dentista. Professor Bressa, come si potrebbe dire ad una persona, senza offenderlo? credo che senza offendere sia difficile, perché è una di quelle vicende su cui la permalosità è molto molto molto alta, perché chiaramente si è consapevole di portare a disagio. Ma direi che chiaramente, a seconda dell'intensità del rapporto, devo far presente che quel tipo di situazione è comunque l'espressione di un piccolo disagio che probabilmente può nascere da una cattiva alimentazione, da una cattiva digestione, e che correggendo quella corregge anche gli effetti, forse diventa un consiglio di salute, quindi è più accettato. Leopardator, ma che fa, dorme? No, leggo. Ah, ma le ho portato il suo digestivo. Oh, grazie, molto gentile. Ah, grazie. Ah, anche questo sa di aglio, so. Qui sa di aglio tutto, non lo voglio, tenga. Lo so, ma qui bisogna abituarsi all'aglio, perché l'aglio lo vedo proprio dappertutto, nei capelli. Me ne sono accorto, tant'è vero che non riesco a dormire, per di più mi si è rotto anche il televisore. Dottoressa Rigoni? La littosi, dicevo, purtroppo può colpire chiunque quando ci siano appunto abitudini alimentari un po' eccessive, come, non so, grande ingestione di cipolle, ma aglio. Uno si fa la bagna cauda, poi anche se... Oppure dopo lunghi digiuni, cioè se uno non mangia tutta la giornata, c'è questo alito appunto pesante. Da un punto di vista odontoiatrico si hanno questi problemi quando il parodonto è malato, cioè quando ci sono le tasche parodontali, ascessi. Fate qualcosa, perché sì. baciare fa bene. Professor Bressa, a Libera, attiva gli stessi meccanismi, e forse anche meccanismi molto più forti del sorriso, perché le endorfine sono a mille. Sì, ma soprattutto l'ossitocina, nel senso che questo ormone, che ha poi diverse valenze, tutte straordinarie, specialmente nel corpo della donna, è determinante per l'aumento del rapporto di fiducia. E mentre il sorriso, comunque c'è una distanza fisica, determina questo aumento dell'ossitocina, e l'ossitocina è la prova vivente di come avere maggiore fiducia nel prossimo non nasce soltanto da un fatto psicologico, ma è per l'ennesima volta un fatto ormonale del nostro cervello. Voglio salutare con un sorriso, non posso baciarlo perché è lontano, il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medico di Altavilla Vicentina, e anche uno dei nostri esperti del Daily Lab, il laboratorio del benessere, a cui io vi invito sempre a fare un saltino. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Noi non volevamo parlare di alitosi, ma poi, parlando di baci, l'incontro ravvicinato è inevitabile. Andare a finire su questo tema, ma io vorrei chiedere a lei un rimedio per bocche in cui più che la passione si sente un dolore lancinante quando abbiamo la classica afta. Capitano a tutti, sono molto dolorose, sappiamo che dopo qualche giorno passano, ma nel frattempo sono dolori, e lì, anche lì, i baci meglio non darli. Dottor Temporin. Sicuramente sono fastidiosissime ulcerette che compaiono sulla mucosa interna delle guance e delle labbra, e danno veramente molto fastidio, anche perché la durata media può andare dai 10 ai 15 giorni, e in alcuni casi molto spesso si protraggono, oppure ogni mese tendono a ritornare. Questo perché possono essere associate a vari problemi, problemi allergici, problemi immunitari. Vi è anche una stretta correlazione tra l'aftosi e, per esempio, una disbiosi, quindi un'alterazione della flora batterica intestinale. Quindi, per cui l'afta tante volte è una spia, e soprattutto se dura da più giorni, almeno dopo i 10 giorni bisogna farsi controllare, vero dottoressa Rigoni? Sì, qualsiasi lesione in bocca che duri più di 10-15 giorni va controllata. Questa è per una prevenzione generale, anche per altri tipi di problemi o di ferite nel cavo orale. Allora, leggo un messaggio di Giuliana che ci scrive che nel film Il Marchese del Grillo la fiatella era descritta come i topi morti, un po' forte ma azzeccato. Per le afte, che cosa ci suggerisce? Un rimedio naturale che ci faccia passare rapidamente il dolore e soprattutto risolvere il problema? Beh, un buon rimedio lenitivo per combattere l'infiammazione data dalle afte possono essere degli sciacqui effettuati con la calendula officinalis, che è una pianta il cui fiore ha proprietà lenitive, e associate all'uso della propolis, la quale ha un effetto anche antisettico. Quindi proviamo con questi due rimedi, dottoressa Rigoni. Laddove però il dolore è troppo acuto, si può utilizzare il laser, che può ridurre i tempi di guarigione in maniera notevole. Quindi entrambe le metodiche hanno una grossa utilità, ovviamente nelle afte maggiori, quelle molto grandi, l'utilizzo del laser aiuta e risolve il problema in tempi più ridotti. Dottor Temporin, chi ha regalato un sorriso o un bacio oggi? Un bacio ancora nessuno stamattina. Va bene, allora lo mandi a noi. Mille baci, dottor Temporin. Grazie per essere stato con noi. Maria da Genova, buongiorno. Buongiorno Maria. Abbiamo buongiorno. Pochi minuti, pochi secondi. Molto velocemente. Allora, io sono una che sorride. Sorridiamo tutti in famiglia. Abbiamo sempre sorriso spontaneo. È proprio molto, proprio viene dal cuore. Cioè non si fa nessuna fatica. Grazie Maria per la sua telefonata. Adesso noi dobbiamo però proprio salutarci, lo facciamo naturalmente con un sorriso. Buona giornata a tutti voi che ci avete seguito, un saluto e un sorriso da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.